Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei New Disorder dal titolo Hollywood Burns. Come si chiamava questa canzone? Another Hero to Save. Dopo il disco, ora cosa attende ora i New Disorder per il proseguo del cammino? Beh, diciamo, per il proseguo del cammino abbiamo buoni propositi. Allora, abbiamo appena terminato un piccolo tour nel centro Italia, come dicevamo prima, per la promozione del disco. Abbiamo e programmeremo altre date per l'estate, sempre per la promozione e per alcune chicche che diremo dopo. E soprattutto stiamo ultimando arrangiamenti e nuovi brani per il disco del 2011, ma allo stesso periodo, in questo stesso momento, dato che è un periodo molto proficuo e a livello compositivo, stiamo realizzando un special che diciamo uscirà verso settembre-ottobre. E soprattutto stiamo organizzandoci per, come dicevo, per il 2011, per veramente un grande spettacolo. E quindi rimanete collegati sempre sul MySpace, dove avrete nostre notizie e tutto quanto. Ora ascoltiamo quale canzone? La title track dell'album, che si intitola Hollywood Burns, appunto. Il tempo scorre e noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming. Un grazie a New Disorder per la partecipazione, buon rientro in quel di Roma e un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un altro CD. La parola per i contatti web ed email per info sul vostro album ed un calendario di eventuali live. Sì, come già abbiamo detto, il modo migliore per essere sempre informati su di noi è consultare periodicamente il nostro MySpace. Ricordiamo l'indirizzo www.myspace.com/newdisorderband. E lasciateci commenti, messaggi, fateci sentire che ci siete, fateci sentire il vostro calore. E live prossimi, stiamo lavorando più che altro in studio, ma abbiamo un paio di date fissate per giugno e luglio. Il 30 giugno saremo nella famosa stazione birra di Roma, finalmente, e il 30 luglio allo spazio Ebro, sempre a Roma. E per quanto riguarda l'email, se volete scriverci, l'indirizzo è newdisorderband@gmail.com. Brano per chiudere questa puntata? Blue Skies, sperando che sia anche di buon augurio visto che l'estate stenta ad iniziare. E allora Jean-Luc e New Disorder vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. Blink of eye. That's why I'm dropping you a line.